Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come avrete sentito nel giornale radio, oggi è una puntata molto particolare. Nell'ambito dell'impegno che si è già preso Radio 24, sta portando avanti da questa stagione di messa in onda, noi dedichiamo una volta a settimana a Melog, ma tutte le altre trasmissioni, vari spazi al mondo della disabilità, intendendo per disabilità uno spettro molto ampio. Disabili sono anche le persone che non hanno una autonomia, un'autosufficienza, che non necessariamente hanno un certificato di disabile. Vi faccio un esempio: questa mattina ho trovato una signora nella metropolitana di Roma, uscita Piazza della Repubblica, immobile davanti all'inizio della scala mobile, una signora di età 65-70 anni, forse qualcosa di più, non si capiva bene, non riusciva a salire sulla scala mobile. Insieme a un altro signore pian piano l'abbiamo fatta salire, faceva un passetto piano piano ogni secondo, era praticamente impossibilitata a camminare. Abbiamo provato a capire cosa avesse, ci sto andando dal mio dottore, ma partiva da una metropolitana molto lontana, ci sembrava strano, era totalmente incapace a muoversi. Mettendoci 20-30 minuti l'abbiamo portata fuori all'aperto, all'uscita della metropolitana, ho provato a farle qualche domanda, mi sembrava un po' confusa, ha anche pronunciato la parola Alzheimer, ha detto devo andare dal mio medico, mi sembrava strano che il suo medico di base fosse in un quartiere lontanissimo rispetto a dove era partita. Non aveva parenti, non aveva amici, non aveva nessuno, mi ha detto soltanto il suo nome. Ho chiesto prima dei finanzieri che stanno lì fuori in tenuta antiterrorismo, mi hanno detto di chiederlo ai poliziotti, sono andato dai poliziotti che stanno più accanto, molto gentilmente sono venuti lì, hanno detto non sappiamo cosa fare questa signora, dico ma chiamate qualcuno, chiamate un'ambulanza, questa signora non è in grado di muoversi da sola per la città. Hanno detto se lei non esprimeva questo parere non potevano farlo. Ho chiamato un taxi, la signora piano piano è salita in un taxi, è andata non so verso quale destino, non so nemmeno se avesse i soldi dei taxi nella borsetta, e ho pensato che era un essere umano non perfettamente in grado di definire la sua vita, la sua autonomia, probabilmente con dei problemi. Mi è sembrata un po' appannata, ma io non sono un medico, non posso fare delle diagnosi. Comunque è una persona sola, è una persona che non aveva in quel momento contatti con il mondo, è una persona che per quanto abbia tentato di creare con lei dei link con i rappresentanti diciamo delle istituzioni, in realtà o non c'erano gli strumenti o non c'era la volontà o non c'era la capacità o non c'era la conoscenza del problema. Insomma, quella signora è salita in un taxi con il rischio che il tassista a un certo punto avrà preteso probabilmente dei soldi che lei magari non aveva nella borsetta, o forse andava da un medico che lei pensava potesse risolvere i suoi problemi, che molto probabilmente manco sapeva esattamente la provenienza di questa sua paziente. La signora mi ha detto non aver nessun tipo di assistenza, mi sembra strano. Una signora che non è in grado nemmeno di muoversi, camminava veramente in una maniera indefinibile, con evidenti problemi di autonomia, che non avesse nessun tipo di assistenza. La famiglia dov'era? Aveva parenti, figli, nipoti? Non si sa. Si è persa nella città di Roma oggi, verso le 9:30 della mattina. L'ho vista l'ultima volta scomparire dietro la fontana del Tritone. Voi dite cosa c'entra questo? Questa è una persona che comunque aveva un problema di gestione della propria autonomia. Sabato cade la nona giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo. Ne abbiamo parlato negli ultimi anni, sapete che è un problema che conosco bene, cercherò di parlarne anche oggi, cercherò di non renderla molto pesante per le persone che non hanno questo problema, cercherò di far capire che comunque i limiti alla propria autonomia, alla propria capacità di relazionarsi con il mondo, possono essere dei limiti che possono insorgere sin dal momento in cui noi veniamo concepiti, quindi nella nostra crescita all'interno della nostra madre, o possono venire comunque per altri mille problemi nel corso della nostra vita. Quindi non disprezzate e non scrollate le spalle, non dite che noia, come dite spesso, mi avete detto spesso, se ci avevi una figlia velina stiamo tutto il giorno a parlare di figa. No, oggi parliamo di autismo non soltanto perché è un figlio autistico, perché è un problema grosso, è un problema che riguarda moltissime famiglie, si parla di più di 500.000 di famiglie in Italia, ma è anche incerto il dato, perché ancora dobbiamo fare una grande battaglia per fare la conta reale di tutti gli autistici in Italia. 800 24 00 24, a tra un istante. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Melog, cronache meridiane. quest'anno di autismo si parlerà in grande spolvero, c'è una grande informazione, stanno già incrociandosi i comunicati di agenzia, già hanno cominciato a preparare le lucine blu per illuminare i monumenti, già si saranno messi i sindaci le fasce tricolori, già il Presidente della Repubblica ha ricevuto ministri e autorità e già ci saranno da qui a sabato probabilmente un'infinità di manifestazioni in tutta Italia. Io sono contento, sono felice che si parli di autismo, ma non vorrei, come spesso dico, che il 2 aprile, giornata mondiale in cui ci si ricorda degli autistici, non fosse come il 4 novembre per mio nonno, eroe, mutilato e invalido di guerra, la sera del 3 novembre, ogni anno, ricordo ero bambino, mio nonno lucidava le medaglie, mio nonno si metteva il vestito bello, si metteva le medaglie, sfilava insieme a tutti i reduci della prima guerra mondiale, rimetteva le medaglie nella scatola e per gli altri 364 giorni dell'anno era semplicemente un professore pensionato. Purtroppo chi ha figli autistici, le famiglie che devono gestire dei soggetti con delle disabilità di tipo psichico e relazionale, hanno un problema che dura tutto l'anno. Quindi spesso il rischio è che tutta l'emotività si esaurisca in una grande kermesse una volta l'anno. Non a caso tutte le dichiarazioni, le grandi innovazioni, delle leggi salvifiche e dei grandi stanziamenti vengono fatti nei giorni che vanno fra la fine di marzo e i primi d'aprile. Poi per il resto dell'anno si prepara il prossimo 2 aprile. Quindi nella scelta degli ospiti e del taglio di dare a questa trasmissione, che tratta un tema, lo sapete, non è che sto qui a nascondermi o ne faccio poi particolari motivi di orgoglio, è un tema che tratto, che conosco, ormai parte precipua anche della mia attività professionale, è dedicata a dare un senso comunque alla diversità psichica che ho in famiglia, ma che ormai conosco come una realtà molto diffusa nel nostro paese, molto nascosta nel nostro paese, di cui bisogna parlare. Quindi mi sono un po' scervellato, ho deciso di fare una trasmissione totalmente informale. Oggi non parleremo di numeri, non parleremo di leggi, non parleremo di provvedimenti, parleremo soltanto di due esperienze. Ho preso due esperienze tra le tante che conosco, ne ho conosciute centinaia. L'una è l'esperienza di un medico, di un giovane medico, un ricercatore, una persona che ha studiato, è stato all'estero, che ogni giorno li vede in silenzio qualche decina di autistici, li vede, li studia, si dà da fare, anche lui i suoi problemi poi di rapporto rispetto alle istituzioni che molte volte non hanno nemmeno una linea precisa nel trattamento di questa patologia. L'altro è un padre, non è un padre come ve l'immaginereste, la tipica situazione strappacuore che si trova per dare un senso all'autismo, tutti mi dicono trovate delle situazioni che emotivamente facciano riflettere, quindi mamme disperate, padri con la corda al collo che si vogliono impiccare, no, è un padre che è un imprenditore, ha una vita che si è conquistata con il suo lavoro, una vita assolutamente non è una vita con limitazioni tipo economiche, però ha due figlie autistiche adulte, due gemelle autistiche adulte che ho conosciuto. Vi dico e vi confermo che è vero che avere disponibilità economica è molto meglio che essere monoreddito da solo in una città in cui non c'è nessun punto di riferimento, con un figlio chiuso dentro casa. Ho voluto scegliere proprio questo imprenditore perché invece che pensare soltanto alla miglior condizione delle proprie figlie, si è dato da fare e ha cominciato a costruire con sue risorse, combattendo un'infinità di battaglie, quello che è il sogno di ogni genitore di autistico. Un luogo adeguato alle esigenze dei propri figli, ma non un luogo chiuso, non una galera, non qualcosa che assomiglia a un manicomio, a retrobottega di un oratorio, qualcosa di bello, improntato sulla bellezza e sulla ricerca anche estetica, qualcosa di funzionale, qualcosa che possa aiutare questi ragazzi a uscire dall'isolamento e per quanto possibile a offrirsi alla società per quelli che sono le proprie risorse, le proprie capacità. 800 24 00 24 è il numero delle persone che possono chiamare, anzi tutti quelli che si stanno preparando a questa giornata o che hanno un problema, e tanti che mi scrivono ogni giorno perché hanno dei figli autistici, sono angosciati, non sanno quale sarà il loro futuro, cosa accadrà ai loro figli quando non ci saranno più. Questa è la giornata per parlare con due persone che comunque hanno un'esperienza concreta sul campo. Luigi Mazzone, buongiorno. Buongiorno. Luigi Mazzone, ricercatore del Bambino Gesù, medico, si occupa di autismo e neuropsichiatria infantile. Giovanni Coletti, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Coletti è presidente della Fondazione Trentina per l'Autismo, sta realizzando la Casa Sebastiano, che è un polo di eccellenza e ricerca sull'autismo, lo sta realizzando a Corredo, lo sta realizzando con delle soluzioni totalmente innovative. Non tutti probabilmente riusciranno a realizzare un centro, però è un campanello di attenzione alle istituzioni. Si sta parlando di una legge sul dopo di noi, è all'attenzione del Senato. Non vogliamo e non vogliamo pensare che il futuro delle persone che hanno dei problemi di autonomia, questo è il vero problema, l'autonomia, una persona può essere sanissima, avere gambe, braccia e possibilità di muoversi, ma non è autonomo, non può uscire dalla porta di casa. Quando non c'è qualcuno che gli apre quella porta, lo tiene per un braccio, quando deve attraversare la strada, il suo destino deve essere quello di essere rinchiuso. Allora comincio con Luigi Mazzone mentre aspetto le domande del pubblico all'800240024. Luigi Mazzone, ci diamo del tu perché ci conosciamo bene, quindi è inutile fare la pantomima. Più o meno quanti autisti ci vedi te durante una settimana? Ma durante la settimana possiamo anche vedere dai 25-30 ragazzi con autismo. Quindi a te vengono genitori con un ragazzo, quando vengono arrivano a te, hanno già avuto una diagnosi di autismo oppure ancora stanno nell'incertezza, e quali sono i passaggi tipici che fa una famiglia quando comincia a capire che c'è un figlio che è diverso dagli altri? Ma dipende, ci sono le prime visite in cui bisogna arrivare a una definizione diagnostica, per cui si faranno tutta l'osservazione comportamentale, ci sono degli strumenti psicodiagnostici che si utilizzano nel nostro campo che aiutano a supportare la diagnosi, e poi ci sono invece dei controlli ambulatoriali per i genitori, per le famiglie che già hanno la diagnosi e che devono continuare il percorso terapeutico, per cui con dei consigli pratici sulla quotidianità. A onor del vero devo dire che l'utenza è tanta, per cui è giusto dire che si fa fatica anche a mantenere una tempistica di appuntamenti adeguata, perché purtroppo le strutture di riferimento non sono tante, mentre l'utenza è cresciuta a dismisura negli ultimi anni. Molti genitori dicono c'è una lista d'attesa al tiro di un anno per far fare una diagnosi a un figlio. È vero, purtroppo hanno ragione, purtroppo abbiamo fatto anche in ospedale da me, il Bambino Gesù, abbiamo fatto degli ambulatori aggiuntivi per venire incontro all'utenza. Purtroppo c'è tutta Italia che ha bisogno di una risposta, per cui non è sempre facile darla a tutti. Ma questo qual è il problema? Ci sono pochi centri specializzati in autismo in Italia, e quindi al Bambino Gesù vengono da tutta Italia invece che andare da un'altra parte? No, per carità, i centri di eccellenza ci sono al nord, ci sono al centro, ci sono al sud. Sicuramente è cresciuta l'utenza, stiamo parlando ormai di un bambino su 68, c'è più consapevolezza, c'è più attenzione, le scuole inviano alla nostra attenzione, i genitori dopo che hanno fatto la prima e la seconda visita anche legittimamente e giustamente vogliono continuare un percorso. E purtroppo non c'è sempre una corrispondenza tra la richiesta e quello che si può dare in termini di risposta, perché praticamente il numero dei neuropsia infantili, il numero delle strutture di riferimento è purtroppo minore rispetto alla richiesta. Giovanni Coletti, passiamo, visto che ci altaleniamo su due punti del problema, con Luigi Mazzone siamo andati al primo passo, avere una diagnosi. Già mi stanno chiamando persone con i problemi più strani, parlano di autismo indotto, parlano di figli che stanno guarendo. Ancora in Italia non esiste una coscienza scientifica che fa pensare che l'autismo comunque è un disturbo del neurosviluppo, uno nasce autistico e deve andare da un neuropsichiatra, prima di andare dallo sciamano, dallo stregone, dallo psicanalista alla madre, via dicendo, dovrebbe andare dal neuropsichiatra. Ma la coda del problema è che questi figli, una volta che abbiamo accettato che sono autistici, una volta che abbiamo fatto il possibile per loro, crescono, diventano grandi. Intanto a 18 anni smettono di essere autistici, perché non esiste autismo adulto in Italia. Però i genitori a un certo punto si pongono il problema: che sarà di loro? Noi vediamo, e su questo mi stanno ancora fucilando per strada, vediamo che ogni volta che si mette una telecamera in una struttura pubblica o privata o posto d'eccellenza, qualcuno maltratta comunque uno di questi ragazzi. Quindi qual è l'alternativa? Tu Coletti, come ti sei posto il problema, e prima di decidere di mettere anche tue risorse in Casa Sebastiano, ti sei fatto un giro d'Italia per capire cosa c'è nel nostro paese? Sì, beh, le strutture esistenti in Italia ce ne sono, anche che danno alcune risposte. però ho cercato di mettere insieme tutte le evoluzioni e le possibilità di creare opportunità anche lavorative all'interno di Casa Sebastiana, perché se rimane un centro chiuso, come hai detto, lo brucio io stesso che l'ho fatto. E facciamo un manicomio di lusso, nessuno vuole questo. Pertanto nessuno vuole questo, anzi abbiamo creato anche un'azienda agricola a fianco del Casa Sebastiano, abbiamo già costituito la cooperativa lavoro, pertanto noi inseriremo anche gli autistici nelle attività lavorative. È brutto dirlo, ma la gente deve rendersi conto che se noi non facciamo anche business intorno al mondo dell'autismo, tutto quello che creiamo poi muore nella volta in cui vengono tolti i finanziamenti, che sono sempre più scarsi. Questo, se allora, lo dice un imprenditore che ha due figlie autistiche adulte, secondo me non deve suonare come una bestemmia. Le organizzazioni funzionano se riescono a camminare con le loro gambe. Tu che ti sei creato praticamente da solo, hai una fiorente attività imprenditoriale, hai cominciato da zero, hai cominciato la tua storia lo racconta, e quindi nessuno ti ha aiutato, hai usato la tua testa e le tue qualità. Ecco, come puoi spostare quella che è la tua esperienza poi rispetto al problema che tocca 500.000 di famiglie? Quello che dobbiamo creare è anche dei modelli che possano essere esportati, non tenerceli come strutture che creiamo noi, ma deve essere dei modelli di confronto a livello nazionale e internazionale, perché questi modelli possano essere copiati. Tutte le attività vengono sorvegliate dal circuito sistema di telecamere, perché non vogliamo la trasparenza che verso i genitori e verso anche le istituzioni. Noi vogliamo. Ma come risolvi il problema della privacy dei lavoratori? Hai dei dipendenti, se metti una telecamera davanti a un tuo dipendente, figurati, i sindacati ti spellano. In questo caso come superi il problema? Spellano? No, non devono spellermi, devo creare delle opportunità che la supervisione anche trasparente verso, logicamente riservata a pubblico, privato o istituzioni, deve essere gestita in una maniera non per usarlo contro i dipendenti. Quindi ci vuole un patto etico fra chi lavora in questo particolare delicato modello, e dire: guarda, tu devi anche accettare, ne devi essere consapevole, che poi per la delicatezza dell'incarico che hai potresti essere messo sotto una telecamera, così almeno i genitori stanno tranquilli. Ci fermiamo soltanto un istante, devo dare la linea all'informazione della borsa, poi riprendo con un genitore e con un medico, non mi serve di più per parlare di questo tema. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Oggi parliamo di autismo, anticipiamo quello che sarà un discorso generale nazionale che si farà sabato 2 aprile, che è la nona giornata internazionale dedicata proprio alla consapevolezza sull'autismo. Leggo qualche sms che mi è arrivato. Spesso la troppa fiducia fa rimanere fregati. In certi ambiti le telecamere sono essenziali per verificare soprusi illeciti. Io lavoro in un'azienda orafa, di telecamere siamo pieni, e giustifica il fatto che ci possano essere anche delle telecamere in luoghi di lavoro in cui ci sono particolari e delicate mansioni anche da parte dei lavoratori. Chiede un ascoltatore: questa non è una trasmissione clinico-medica, parliamo in termini generali, non è il medico che risponde. Comunque chiede se l'autismo è un difetto genetico e si nota subito da piccoli, oppure la malattia si nota solo dopo l'inizio della scuola. Può essere l'autismo un difetto genetico, malattia che sopravviene anche in momenti successivi? Poi risponderà il dottor Mazzone, per quello che so io, autistici si nasce, ci se ne accorge di solito non subito, anche se diciamo la ricerca sta cercando di individuare dei campanelli di allarme anche molto precoci. E poi la telefonata che mi aspettavo: a Torino esiste la Fondazione Paideia, esiste una mappa d'Italia in cui nelle città sono indicate le associazioni che aiutano autistici. Sono molto reattivi i torinesi e piemontesi, perché tutte le volte che scrivo che in realtà bisogna affrontare seriamente il problema di centri specializzati e ameni in cui possono vivere dignitosamente i nostri ragazzi, subito a Torino mi dicono: sei disinformato, vieni a vedere noi quanto siamo bravi. Per i bravi esiste il regno dei cieli, beati loro. Noi ci occupiamo in realtà di quello che non vediamo, non di quello che è sin troppo palese che sia buono. Siete la coscienza posta, buon per voi. Carlo, buongiorno. Buongiorno, io sono un insegnante di quelli che cambiano sede ogni anno e volevo semplicemente portare la mia piccola esperienza, perché io ho cominciato a insegnare anche grazie all'autismo, perché ho avuto la fortuna, tra virgolette, di assistere un ragazzo autistico da tempi della prima elementare fino alla seconda. Faceva il sostegno media. Al tempo, un insegnante di sostegno? Facevo l'assistenza al sostegno e poi sono passato a insegnare e poi ho fatto anche sostegno fuori graduatoria, poi addirittura insomma ho approfondito molto il discorso autismo con la metodologia Teach, tanto diventare formatore per la città in cui sono. Insomma, quello che volevo dire è che la mia paura è che questa consapevolezza, come diceva lei giustamente, si fermi alla giornata in questione, e poi anche le scelte politiche dimostrano che si vada in situazioni diverse, dai tagli lineari della sanità alla buona scuola che invece sta declassando gli insegnanti specializzati che si occupano di sostegno, appunto tutto questo ricadrà pesantemente sull'assistenza e sul futuro dei ragazzi a scuola e poi soprattutto oltre la scuola, dove veramente si dovrebbe da raccontare cose indicibili. Io ne dica qualcuna, perché siamo qua per far dire le cose indicibili. Le cose indicibili sono quelle che non esistono veramente. Sì, ci sono dei centri di eccellenza e c'è una grande invece zona grigia d'ombra dove insomma i genitori sono lasciati soli, dove le commissioni si riuniscono doppiamente, spendendo il doppio dei soldi dei contribuenti, per esempio stabiliscono su una invalidità civile un aggravamento e poi la commissione che si riunisce dopo 3 giorni e toglie magari l'assegno di mantenimento ai genitori a fronte di un aggravamento del 100%, del 75%. Questo è uno degli esempi. Quello che mi preoccupa molto da le posso dire che nel mio caso personale si è riunita una commissione per stabilire mio figlio che dopo 18 anni continuava a essere autistico e non era guarito, quindi si vede si che evidentemente anche per stabilire una sindrome di Down, come se insomma a un certo punto potesse non fosse visibile e ritornare alla trisomia 21 annullarsi, e queste insomma sono le cose indicibili. Allora, Luigi Mazzone, ricordo, medico e ricercatore del Bambino Gesù, cominciamo a parlare un po' di quello che viene definito il fantautismo, visto che mi cominciano già a arrivare le telefonate che cominciano a impugnare sicurezze della cosiddetta medicina alternativa, poi elencarmi i 3-4 tranelli in cui cade normalmente una famiglia che non ha strumenti immediati di conoscenza o culturali o di relazione per andare e perseguire l'iter giusto quando vede un figlio un po' strano. Ma sai, il primo tranello è un po' il ritardo della diagnosi, perché un bimbo che parla tardi, un bimbo che guarda poco negli occhi, un bimbo che non risponde al proprio nome, spesso può essere già evidente nei primi 18, 20, 22, 24 mesi di vita, e consigli di amici, di parenti, a volte dello stesso pediatra che gli dice di aspettare un attimo, di ricontrollare dopo 3 mesi, può essere il ritardo della diagnosi può essere il primo vero problema che deve affrontare una famiglia, perché ormai è evidenza scientifica. Sappiamo che prima si inizia un trattamento precoce, prima l'outcome, cioè dire la prognosi del bambino, sarà migliore, per cui il primo vero problema è arrivare a una diagnosi precoce con dei trattamenti precoci. Il secondo vero problema è definire dei trattamenti adeguati. Dei trattamenti adeguati esiste, lo ripetiamo sempre fino allo sfinimento, una linea guida che è quella 21 dell'Istituto Superiore di Sanità, che definisce come i trattamenti cognitivo ad ispirazione cognitivo-comportamentali sono sicuramente la scelta prioritaria, e invito tutti a far sì che in ogni regione ci possano essere degli specialisti che forniscono queste prestazioni e che il sistema sanitario stesso mette in convenzione questi trattamenti, che ad oggi comunque sono la prima scelta. Perché ad oggi il sistema sanitario fornisce la logopedia e la psicomotricità, che è giusto dirlo, non sono riconosciuti come la prima scelta terapeutica nel disturbo spettro autistico ad oggi. E infine poi aggiungo una cosa, perché io posso dirlo come giornalista, te puoi aver qualche scrupolo, i sistemi sanitari nazionali ancora forniscono l'appoggio dei fondi pubblici anche per puri cialtroni, sistemi psicodinamici, persone che ancora mettono le madri in analisi. Ultimamente ho visto la pubblicità di un altro, l'ennesimo metodo che fa sì che sia l'affetto materno che possa far uscire il bambino all'autismo. Devo dire, è un grande dolore che lo spot che sta girando nel servizio pubblico, uno spot che aveva vinto anche un premio probabilmente, che è perfettamente realizzato, ha vinto l'Oscar degli spot, ma uno spot infame, mostra un bambino autistico chiuso nella bolla, con la mamma che disegna un cuoricino sulla bolla, grazie alla mamma che finalmente risveglia il suo cuore di mamma che probabilmente era intorpidito dal suo essere frigorifero, il bambino si risveglia, ma il risultato è che la mamma e il bambino vanno a finire nella bolla. È atroce, vecchio, è antico, è deleterio questo messaggio, perché ancora passa, perché ancora ci sono mamme che vanno sul lettino dello psicanalista e fanno terapie diadiche loro e il figlio insieme perché si possa risvegliare il loro amore. Posso fare una domanda a Giovanni Coletti, così tanto per movimentare? Giovanni Coletti, tu quanti genitori hai visto perdere tempo e soprattutto soldi in panzane enormi? Dalle tue parti ne ho conosciuta una, non ha voluto parlarmene, ma tu puoi raccontarmi qualcosa? Ma molti genitori comunque non si fidano della prima diagnosi, vogliono trovare comunque una strada, no? Quando soprattutto non hai le idee chiare, come il dottor Mazzone, che saluto perché è venuto anche da noi a fare una relazione, è molto interessante, ma quasi tutti i genitori, almeno il 90% dei genitori, poche sono le persone che si fermano e lavorano sul bimbo creando o chiedendo a tutte forze la diagnosi e la riabilitazione intensiva di quello che ha espresso anche il dottor Mazzone. Pochissime sono quelle famiglie che si fermano nella loro zona, moltissime fanno i viaggi della speranza. Noi abbiamo ancora da regione a regione che transitano gli autistici per andare a fare 2 ore di ecobedia dopo 300 chilometri di viaggio settimanale, che vanno per fare 2 ore di terapia lontani 300 chilometri da casa. Pertanto dobbiamo ancora lavorare sulla cultura, sull'accettazione, sui genitori, sulle istituzioni. Noi dobbiamo ringraziare la provincia autonoma di Trento che ha finanziato Casa Sebastiano, non l'ho fatta io, non sono tutti meriti miei quelli che stiamo facendo, come l'attività di laboratorio, come l'inserimento lavorativo. Io ho 2 autistici nella mia azienda metalmeccanica, nessuno ci credeva, tutti contro, io mi sono impuntato e loro lavorano a stipendio come gli altri, non progetti piancinei, ma progetti di busta paga reale come tutti gli altri. La cosa paradossale è che è uscito un articolo oggi sul Corriere della Sera o ieri, adesso non ricordo bene, che c'è una legge che in realtà dà degli strumenti per assumere disabili nelle aziende. La Camera non ha mai assunto un disabile da quando esiste questa legge, quindi le istituzioni in realtà sono le prime a dare il cattivo esempio. Ma dalle tue parti ho sentito una signora che addirittura è andata a Israele a fare una cura che gli costa tantissimi soldi con un infuso miracoloso. In Israele, in America hanno portato anche perfino le camere iperbariche per inserire il figlio da privati, ne hanno fatto di tutti i colori, dagli infusi agli intrulli che magari si vendono per, magari fanno anche bene dal punto di vista della salute, ma non sono le cure per l'autismo. L'autismo bisogna lavorare con scientificità e con serietà sulla parte intensiva della parte riabilitativa dei primi anni di vita, punto. Non esistono altre formule. Luigi Mazzone, sentire un genitore che lo dice ti conforterà, ma è vero, l'hai scritto nel tuo libro dedicato all'autismo e a, diciamo, una sorta di manuale per genitori che hanno un autistico in famiglia, appunto, questo è il titolo del libro, che una volta sono venuti dei genitori e hanno portato il figlio dall'esorcista. Sì, è vero, è capitato anche questo, tra l'altro una famiglia anche di avvocati, per cui una famiglia con un buon livello socioculturale. Purtroppo, sai Gianluca, quando c'è un problema in famiglia si vuole credere a tutto, è qua che i cialtroni, bisogna dirlo, fanno breccia, perché pur di avere una speranza, pur di avere una speranza sul futuro, i due genitori sono disposti a credere a tutto, e allora è che entrano qua in gioco tutto il fantautismo, cioè tutte quelle terapie alternative che ad oggi non hanno nessuna evidenza scientifica. Ma il problema è questo, non lo dice Mazzone, non lo dice Nicoletti, lo dice la scienza. Esistono dei siti, uno di questi è Medline, dove è possibile scaricare tutte le evidenze scientifiche ad oggi, marzo 2016, in cui le terapie efficaci sono sotto gli occhi di tutti. Non si può essere autoreferenziali nella scienza, non posso dire io sono il più bravo e ho il metodo più bravo, bisogna pubblicare questi dati e bisogna dimostrare che queste terapie sono le più efficaci. E non è vero che ci sono delle lobby che vietano di pubblicare questi dati, bisogna essere bravi a farlo, così come fanno in tutto il mondo. 800 24 00 24, ci fermiamo soltanto un istante, poi riprendiamo con i nostri ospiti la nostra chiacchierata sull'autismo e il nostro contributo al 2 aprile, almeno quest'anno. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Parliamo di autismo. C'è sempre la persona che sbaglia trasmissione o sbaglia persona. Nicoletti, a lezione che hai avuto non ti ha proprio insegnato niente. Rispetta tutti gli esseri viventi, pezzo di merda. Probabilmente perché ogni tanto mi mangio qualche salsiccia, dovrei sentirmi in colpa. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Elena e sono un'assistente educatrice. Lavoro in una scuola dell'infanzia con un bimbo autistico. E niente, ci tenevo a dire che secondo me è fondamentale proprio la formazione su di noi, nel senso che io ho molti supporti, molti spunti da più direzioni, perché sono comunque seguita dalla neuropsichiatria, dalle persone competenti che seguono il bambino insieme a me, e secondo me questo è fondamentale perché mi dà un sacco di strumenti per lavorare nella maniera più ottimale. Come lo sa però Elena qual è il vero problema? Molte volte i genitori si trovano di fronte una barriera, sembra che la gestione all'interno della scuola del soggetto autistico sia cosa che non deve riguardare il genitore, e molte volte la sua giusta applicazione nello studiare non è così, perché molte volte, e questo è il punto dolente, nella buona scuola c'era l'idea di specializzare gli insegnanti e gli assistenti, e hanno detto no, non medicalizziamo la scuola, come se studiare per trattare un autistico fosse medicalizzarsi. No, in realtà il secondo punto su cui volevo appunto dare un contributo è non tanto la formazione, ma proprio il supporto alle famiglie, perché spesso ecco la sensazione è che a scuola si lavori in una certa direzione e a casa in un'altra, o che non ci sia collegamento tra le due parti. Invece per il bene del bambino e perché tutto funzioni nel migliore dei modi è proprio necessaria questa unione. Luigi Mazzone, il parent training in campo d'autismo è qualcosa di cui in Italia si parla poco, ma all'estero c'è una ricerca molto specifica su questo. Sì, il parent training secondo me, secondo molti, può essere il futuro a integrazione delle terapie che ci sono al momento. Ma tutto nasce dalla considerazione che spesso i genitori sono lasciati soli dopo la diagnosi, che è un dato di fatto, bisogna dire le cose come stanno. Spesso dopo la diagnosi l'unico conforto che hanno i genitori o è internet o è qualcuno che ha lo stesso problema, sono le associazioni stesse, e nessuno spiega come gestire un comportamento problema o come gestire una quotidianità che cambia. Per cui fare un parent training, tecnicamente appunto un allenamento genitoriale, ma non perché due genitori non sanno fare i genitori, semplicemente perché già è difficile fare i genitori di un normotipico, di un bambino normotipico, a maggior ragione di un bambino che ha dei problemi. Il parent training negli Stati Uniti sta prendendo molto piede, ci sono delle linee guida, una mia collega in questo momento è alla Emory University ad Atlanta, speriamo di tradurre le linee guida americane e di portarle anche in Italia, ma ci sono già delle belle esperienze in Italia dove il parent training è sicuramente una prima scelta. Invito tutti a cercare degli specialisti per fare un buon parent training. Abbiamo Alessandro, buongiorno. Buongiorno, salve. Io soffro io sono stato diagnosticato con la sindrome di Asperger, che purtroppo è un po' una zona grigia, soprattutto in Italia, perché un anno è autismo, un anno nel DSM parlo, un anno è autismo, un anno è sindrome di Asperger a parte. A te poi non è che cambia molto, onestamente, come ti chiamano? Dentro la sindrome di Asperger, e sono stato diagnosticato da adulto. Fino a quando ero piccolo me ne hanno dette di ogni, ADHD, poi ero in una scuola di salesiana, quindi un po' un disastro, insomma. Sì, diciamo. Conosco l'esperienza e ti dico che è già difficile farla senza essere Asperger. E il problema è che per quanto riguarda uno, secondo me, dei grossi problemi dell'autismo, e poi parlo per la mia esperienza e la mia diagnosi, è la sindrome di Asperger da adulti. Cioè l'ASL mi ha certificato la sindrome, non mi ha dato alcun tipo di altra di altra indicazione, nel senso che è associato a un disturbo ossessivo compulsivo ma non a depressione, quindi io non ho neanche mai voluto fare richiesta di un sussidio, però non sarei ipoteticamente potuto entrare nei requisiti, e soprattutto nel mondo del lavoro io sono perfettamente in grado di lavorare in totale autonomia. Ma tu lavori, hai un'attività oppure? Io lavoro come programmatore e sono indipendente, nel senso che ho la mia partita IVA e faccio... Beh, diciamo che ho avuto, in questa rubrica dedicata particolarmente alla disabilità, abbiamo avuto un ragazzo, anche lui Asperger, che ricordo che, non so, adesso spoilerazione, non è una forma di autismo, ma comunque è indicato, a volte sì, a volte no, nello spettro autistico. Sono persone che hanno delle difficoltà nel decifrare la relazione, però hanno un quoziente intellettivo a volte anche più elevato della norma, e sono molto bravi. In questo particolare un ragazzo molto bravo anche lui nell'informatica, non riusciva a essere assunto, alla fine abbiamo trovato una startup che lo assumesse. Velocemente Gigi, proprio in una battuta, per definire oggi l'Asperger, per non fare torto a nessuno. Ma l'Asperger è, da DSM, è la vecchia forma di autismo ad alto funzionamento. Sono quelle persone con quoziente intellettivo molto, molto sviluppato, che hanno un linguaggio forbito e possono assolutamente, se ben supportati, fare una vita normale. Anzi, possono diventare una risorsa su molti campi della nostra società. Assolutamente, è una forma di autismo in cui c'è più di una risorsa da sviluppare. Allora, Giovanni Coletti, proprio da imprenditore oltre che da padre, mi dice esattamente che idea ti sei fatto del possibile inserimento professionale di soggetti variamente inseriti nello spettro autistico? Hai sentito, questo ragazzo Asperger, un ottimo programmatore, lavorerà benissimo, sarebbe un gran vantaggio per chi lo avesse, perché lui si mette davanti a un computer probabilmente e non si distrae mai finché non ha finito il suo lavoro. Ma la parte lavorativa degli autistici è possibile, pertanto l'abbiamo già verificato. È proprio su questo che chiediamo la collaborazione di molti ragazzi e molte famiglie, perché poi sono anche le famiglie scettiche, perché esiste un problema poi che vengono sbattute fuori dal sostegno nel momento che entrano nel mondo del lavoro. È una sfida anche pericolosa, perché poi per ripristinare il sostegno passano anche delle giornate, dei mesi, addirittura qualche anno è passato. Cioè perdono l'assistenza domiciliare quando lavorano, perché sono lavoratori a tutti gli effetti. Questo... Sono lavoratori a tutti gli effetti, pertanto bisogna cambiare soltanto la legge e adeguarla alle nuove innovazioni anche nell'inserimento lavorativo di questi soggetti. Perché la legge prevede che assistito domiciliare a vita, quindi a vita tu devi stare dentro casa, questa è la sintesi. Per loro sì, e non possono andare a lavorare secondo la legge, eccetera. Noi abbiamo visto che questo è possibile e sono una grande risorsa trascinatrice verso gli altri. Pertanto gli autistici sono anche delle grandi potenzialità umane da inserire in tutti i campi lavorativi. Gigi Mazzone, in conclusione anche te, sei convinto da medico che ci possono essere delle risorse spendibili anche per il benessere della società nello spettro dell'autismo, o è soltanto, diciamo, il destino quello di far finta di far loro qualcosa, infilare le perline e giocare ancora come si giocava da bambini? No, ma io sono convinto, allora è giusto dire che tanto è stato fatto in questi anni, perché è giusto riconoscere dei passi avanti che sono stati fatti, e tanto c'è ovviamente ancora da fare. Io conosco il mio pensiero, che è quello di demedicalizzare sostanzialmente l'autismo. Un ragazzo autistico che non ha un disturbo del comportamento, che non ha un problema medico, metabolico, dal mio punto di vista deve fare un accesso in meno in ospedale e un'attività sociale in più. In questo, tu lo sai, ci stiamo spendendo tanto. Ricordo che Gigi Mazzone è mental coach della nazionale di spada che andrà alle Olimpiadi Rio de Janeiro. Gigi Mazzone è stato un nazionale di spada e si porterà anche degli autistici a Rio de Janeiro a vedere gli spadaccini, e ha anche lanciato un corso di spada per gli autistici. Con la spada in mano probabilmente sembreranno più appetibili anche per la società. Grazie a tutti, alla prossima.